Rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Cominciamo questa settimana dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, questo giornale un po' serioso tedesco che solo di recente ha introdotto le fotografie a colori perché è tutto insomma bello pesante, bello grigio, però ripeto molto serio e autorevole. E questa settimana ha intervistato il nostro ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Gentiloni, fresco appunto, fresco ministro degli esteri, fresco di nomina. Sapete che ha sostituito Federica Mogherini, che è andata a ricoprire un ruolo molto simile all'interno della Commissione Europea, c'è cioè una sorta di ministro europeo degli esteri, la cosiddetta Lady Pesk. E appunto alla vigilia della sua visita a Berlino Gentiloni ha un po' raccontato quelle che secondo lui sono le caratteristiche principali del governo Renzi e di Matteo Renzi, e ha detto: il contributo più importante finora del primo ministro Matteo Renzi è stato che ha vinto le elezioni europee contro questo sentimento anti-europeo. Questo è sicuramente un dato oggettivo, cioè sappiamo che il PD e Matteo Renzi, che l'ha trainato a questa vittoria, ha avuto alle elezioni europee del 25 maggio scorso una percentuale enorme senza assumere posizioni anti-europee, anche se come sappiamo ha ribadito prima delle elezioni, alla vigilia delle elezioni e dopo le elezioni, anche adesso durante la presidenza europea, il nostro semestre di presidenza, ha chiarito che alcune cose in Europa devono cambiare, ma non si può certo tacciare di euroscetticismo, appunto, anzi premuto molto perché un'italiana andasse a ricoprire questo ministero degli esteri europeo. E purtroppo, ha detto ancora Gentiloni alla FAZ, i popoli del cuore d'Europa se ne rendono conto meno di coloro che vivono nei paesi più periferici in Ucraina o nei Balcani, di questi vantaggi che l'essere raccolti in questa grande unione che è l'Unione Europea, questa grande unione di popoli che è l'Unione Europea, in realtà porta più vantaggi che svantaggi. Sempre sul Premier possiamo citare anche un articolo di Financial Times che è uscito giovedì, e c'era un lungo articolo in realtà dedicato a Renzi, che io ricordi, Renzi è sicuramente uno dei premier italiani che ha avuto la maggiore attenzione del Financial Times. E ricorderete, forse qualcuno ricorderà questa autodefinizione di sé che aveva dato Matteo Renzi, cioè mi sento un post-it perché continuo a essere appunto come quei cartellini gialli che devono ricordare le cose. E però Financial Times in questo caso ha detto che sicuramente Renzi continua a essere brillante, pieno di battute, pieno di idee, e però sicuramente ci vogliono adesso un pochino di fatti, perché oltre sicuramente a questo ampio ancora sostegno popolare che Renzi ha, scrive Financial Times, è aumentata anche l'opposizione, per esempio quella dei sindacati, e in particolare non tanto Susanna Camusso, secondo Financial Times, ma Maurizio Landini, il leader dei metalmeccanici della CGIL. Passiamo a un altro argomento che è un po' più, esce dai confini italiani, e sono le elezioni il referendum che c'è stato domenica scorsa in Spagna. Sapete, la Catalogna ha voluto questo referendum, che per ora è di fatto solo consultivo, cioè anche se hanno vinto i sì all'indipendenza della Catalogna, in realtà questa indipendenza non verrà concessa, però sicuramente ha cambiato molto i rapporti che adesso il governo di Madrid dovrà avere con le correnti indipendentiste. E quindi lunedì scorso la stampa spagnola ha dedicato molte pagine a questa consultazione, anche perché sappiamo che la Catalogna, ricordiamo tutti il caso della Scozia, ma comunque ce ne sono anche altri, persino in Italia, la Catalogna è solo una delle molte regioni che chiede, almeno una parte degli abitanti, chiedono l'indipendenza dalla Spagna, e si porrebbe anche nel caso della Catalogna, come si sarebbe posto nel caso della Scozia, la questione di che cosa succede all'interno del quadro dell'Unione Europea se una regione di un paese membro si stacca. Invece il Wall Street Journal si è occupato di un'altra questione molto spinosa che riguarda 5 banche europee, perché infatti ci sarebbero 200 tra veterani americani e famiglie di reduci americani e famiglie di soldati statunitensi uccisi in Iraq, che hanno puntato il dito contro 5 banche europee accusandole di aver finanziato gli attacchi terroristici costati la vita ad americani in Iraq. Questa è, ripeto, una questione molto spinosa, molto difficile dimostrare innanzitutto che queste banche abbiano veramente finanziato il terrorismo, perché magari hanno finanziato personaggi poco chiari, poco trasparenti, che a loro volta finanziano il terrorismo, e comunque c'è una responsabilità oggettiva delle banche. Uno potrebbe dire sì, però appunto è tutto da dimostrare. Comunque questi 200 reduci americani e famiglie di soldati uccisi in Iraq hanno citato almeno 50 attacchi contro cittadini americani che si trovavano in Iraq o per svolgere il loro lavoro di soldati o per lavoro, e in qualche modo la responsabilità degli attacchi terroristici cade, secondo questo ricorso, questa denuncia fatta in America, anche sulle banche. A proposito di questioni di cui avevamo parlato anche la settimana scorsa, quella del welfare europeo, l'ESECO di Welt, The Daily Telegraph, questa segnalazione la prendo dal, sapete, il sito che mi piace tanto, presseurope.eu, che ci dà una finestra su tanti giornali europei, titola il turismo sociale, la decisione della Corte non è altro che giustizia. Infatti sapete che l'11 novembre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha deciso che gli Stati membri non erano tenuti a offrire prestazioni sociali ai cittadini di altri stati membri che emigrano al solo scopo di beneficiare appunto di questi aiuti sociali, perché il welfare è materia prettamente nazionale, quindi il welfare italiano è diverso da quello britannico, è diverso da quello francese, e ci sarebbe appunto il turismo sociale, conoscevamo quello sanitario, adesso scopriamo che c'è anche questo. Dico scopriamo perché in Italia il welfare italiano tutto sommato non è messo così male, non siamo ancora nelle condizioni di emigrare per trovare un welfare migliore, c'è sicuramente qualcuno che lo fa, però insomma, ripeto, rispetto ad altre nazioni, soprattutto per quanto riguarda la sanità, che tutto sommato è parte del welfare, in Italia abbiamo ancora delle buone possibilità. Quindi appunto, come vi dicevo, sono vari i giornali che si sono occupati di questo, ma prendiamo il Daily Telegraph perché la settimana scorsa avevamo citato proprio le parole del Premier Cameron, che non apprezza affatto questa forma di turismo sociale quando è diretto verso il Regno Unito. Allora il Daily Telegraph scrive che dopo questa decisione i turisti sociali rischiano di essere rimandati nel loro paese natale. Il quotidiano anche ha ricordato che l'argomento è al centro del dibattito politico nel Regno Unito e ha precisato che con questa decisione della Corte di Giustizia Europea Cameron ha il vento in poppa. Il primo ministro inglese ha definito, guarda caso, questa decisione un passo intelligente nella buona direzione, e poi ha promesso di limitare in modo significativo l'immigrazione e di essere inflessibile sul turismo sociale, anche se poi ha proposto un referendum sull'adesione del Regno Unito all'Unione Europea. Parlavamo di euroscetticismo, ecco, in Gran Bretagna, specie dopo il referendum sull'indipendenza della Scozia, questo è un tema molto molto sentito, e siccome David Cameron affronterà presto delle elezioni politiche, lo ha messo al centro della sua agenda. A proposito di un'altra questione europea che da una parte potrebbe, è da anni che si cerca di gestire appunto a livello europeo, però con risultati poi non brillantissimi, parliamo dell'immigrazione. Le Monde ha pubblicato un editoriale intitolato "L'Europa abbandona i profughi", lo ha tradotto internazionale, ve ne leggo una parte. Nella mitologia greca Tritone era il messaggero dei mari e aveva il potere di calmare le tempeste. 2500 anni riemerge nel Mediterraneo con la nuova operazione di controllo delle frontiere marittime e ha di nuovo il compito di calmare una tempesta, quella di centinaia di migliaia di profughi che rischiano la vita per sfuggire alla guerra o alla miseria, ma porta un messaggio di impotenza. Sapete che appunto Tritone è la traduzione italiana di questo dio, ma l'operazione, la nuova operazione europea che sostituisce Frontex, si chiama appunto Triton. E conclude Le Monde, Triton non potrà calmare la tempesta, i migranti continueranno ad arrivare perché non è la prospettiva di essere bene accolti che li spinge a partire, ma la miseria e la violenza. La verità è che oggi in Europa l'immigrazione è considerata una piaga e alimenta il successo dei partiti di protesta. Nessuno dei grandi partiti ha il coraggio di elaborare una strategia nazionale e razionale sulla gestione, l'accoglienza o l'utilità dei migranti. Finché ignoreremo la questione, il Mediterraneo continuerà a inghiottire profughi. E a proposito di spinte separatiste, torniamo un attimo, credo l'ultima segnalazione che riesco a farvi, sull'Ucraina, perché il 2 novembre, sapete, ci sono state le elezioni parlamentari nelle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk, e sono state le prime elezioni parlamentari e presidenziali dopo la crisi. Kommersant scrive che a capo della Repubblica di Donetsk è stato eletto Aleksandr Zakarchenko, attuale capo del governo filorusso, mentre quella di Luhansk sarà guidata dalla dell'attuale leader locale Plotnitsky e i rispettivi movimenti si sono imposti a larga maggioranza. Questo è sarà sicuramente un risultato forte che, diciamo, come tutti i risultati chiari, può essere un vantaggio, però riapre la questione, perché appunto se i partiti filorussi continueranno a godere dell'appoggio di Putin, Putin continuerà a avere problemi di frizione con l'Unione Europea, con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea, tutti problemi che adesso che ormai l'inverno è alle porte possono avere anche delle conseguenze geoenergetiche, diciamo così, sull'Europa e sull'Italia in primis, che sappiamo non è assolutamente autonoma dal punto di vista energetico. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.